Vengo rapito da pensieri che diventano preoccupazioni. Rimango chiuso in una scatola e vado avanti a fare le mie annotazioni. Scarse impressioni, là fuori tutto quello che mi aspetta non mi dà motivazioni per continuare a fare le mie storie. Sono partito a raccontare quello che si dava nel 99 e mi ritrovo oggi a darti già le mie memorie. Strano sapore che si trova in bocca. Nonostante questa vita non sia molto lunga, sono sempre troppi figli di mignotta. Questo mi porta a ricordi che da tempo lasci indietro e non credo che si dimentichi il passato. Quello che cerco io lo trovo solo fuori da qui. I miei successi, le vittorie sono fuori da qui. Per stare meglio con me stesso vado fuori da qui. Non ritornare in questo cesso resta fuori da qui. Quello che cerco io lo trovo solo fuori da qui. I miei successi, le vittorie sono fuori da qui. Per stare meglio con me stesso vado fuori da qui. Non ritornare in questo cesso resta fuori da qui. Resta fuori da qui. E stare male per chi ti vuole bene al massimo può essere un pretesto per tornare. Ma quando smetti di volare hai bisogno di cambiare. Devo ricominciare tutto quanto. Il mio primo quarto di vita sta finendo. Ormai sono già 25 anni che lo sto covando. E da quando sono partito che io ci penso in fondo in vita mia non c'è stato un vero amico. Quello che cerco io lo trovo solo fuori da qui. I miei successi, le vittorie sono fuori da qui. Per stare meglio con me stesso vado fuori da qui. Non ritornare in questo cesso resta fuori da qui. Quello che cerco io lo trovo solo fuori da qui. I miei successi, le vittorie sono fuori da qui. Per stare meglio con me stesso vado fuori da qui. Non ritornare in questo cesso resta fuori da qui. Resta fuori da qui. Resta fuori da qui. Resta fuori da qui.